Al supermarket la cassiera alza gli occhi dalla spesa che l'ho sciorinato davanti sul nastro mobile. Mi guarda fisso per un momento, poi scuote la testa. «Che vita!» dice a voce abbastanza alta. «Come che vita?» penso io, e controllo rapidamente la merce che ho scaricato dal carrello. Niente di speciale, noto con sollievo, è la solita roba: 4 lattine di birra, un cestino di acqua minerale, 3 mezzi litri di latte scremato, una reticella di arance a coltivazione biologica, una bottiglia di Chardonnay Blu, una confezione di pesce fresco. Niente che possa indurre nessuno a scuotere la testa e ad esclamare «che vita!». Ma la mia interlocutrice, che è una signora di mezza età dall'aria simpatica, anche se forse un po' sciupacchiata, non ha finito. «Lavorare, lavorare», aggiunge in tono particolarmente disgustato, «lavorare, lavorare». E poi lascia in sospeso la frase e scuote di nuovo la testa con eloquenza, e poi comincia a battere sul registratore il prezzo dei vari articoli. A questo punto mi è chiaro che la cassiera non ce l'aveva con me e non intendeva esprimere un giudizio sulla mia strategia di approvvigionamento alimentare o su qualsiasi altra questione che mi riguardasse. Rifletteva su di sé, sul suo personale destino, e le è capitato di dar voce a quello che spero sia stato un momento passeggero di sconforto. «Io non c'entro, sono solo lì di passaggio», avrebbe detto la stessa cosa a chiunque in quel momento fosse fermo in attesa davanti alla sua cassa. Però per un motivo o per l'altro si è rivolta a me. E se qualcuno ti si rivolge, in teoria, se non fosse altro per educazione, devi rispondergli. E cosa posso rispondere a questa donna prima che abbia finito di battere i prezzi e, porgendomi lo scontrino, mi escluda dalla sua vita? Lavorare, lavorare. E poi? Già, e poi che? Personalmente non ho sufficienti competenze in teologia per garantirle che dopo una vita laboriosa e quindi virtuosa ne sarà ricompensata con un posto di riguardo in paradiso, e comunque non ricorrerei in alcun caso all'argomento, perché so che a molti dà fastidio, a prescindere da qualsiasi convenzione di tipo religioso. Anche chi crede fermamente nell'aldilà di solito preferisce rimandarne il più possibile l'esperienza. D'altro canto, la mia modesta esperienza politica non mi permette proprio di assicurarle che in un futuro più o meno prossimo la tanto attesa rivoluzione o le tanto attese riforme, fa lo stesso, renderanno la vita dei lavoratori un paradiso in terra, o anche soltanto un purgatorio un po' meglio organizzato di adesso. E allora cosa posso dirle? Potrei sorriderle, bofonchiare qualcosa come «eh sì, come dice bene, ma cosa se ne farebbe, poveretta, di un commento idiota del genere?» E se ricorressi a un vieto «forza signora, stringa i denti e tiri avanti che tanto non c'è nient'altro da fare», avrebbe tutti i diritti di mandarmi a quel paese. I momenti di sconforto sono importanti per chi vi sta vivendo, e chi ti viene a dire che non ci si può far niente tende a sottovalutarli, o almeno dà l'impressione di volerlo fare. Per cui, in definitiva, non le ho detto assolutamente niente. Ho fatto una specie di mezzo sorriso, vi ho aggiunto un cenno di deprecazione con la testa, ho raccolto la mia spesa e me ne sono andato. Ma me ne sono andato di pessimo umore, scontento di me stesso e con la vaga sensazione di aver mancato un dovere sociale. E so già che in futuro, nelle mie visite a quel supermercato, eviterò la cassa presidiata da quella signora, non perché abbia niente contro di lei, ma perché d'ora in poi mi ricorderà quella che io considero una defiance. Insomma, la ricerca, sia pure casuale, di un interlocutore ha finito col ridurre in permanenza il numero degli interlocutori possibili. Che vita!